sì, qua. Beh, ci cominci, sì. Attenzione, ci cominci. Manuel. Dove sei, Tony? Tony. Se la frequenza è quella, 1, 2, 3 prova, non so se la frequenza è quella perché il coso qua, il display, non mi segna più perché mi era caduto per terra, mi era caduto ed è sparita tutta la numerazione della frequenza. Non so se c'è entrata. Sì, perfetto. Tu mi senti a me, Giulio? Sì, alla grande. Come il 27 ti sento, tranquillamente. Vabbè, questo è quello che uso, mi ha portato anche questo. Quello piccolo, 706, è così, è giusto per ascoltare un po' i punti e per vedere un po'. Vediamo un po' se c'è Tonino. Tonino! Tonino! Non c'è. Sì. No, ti sento magnificamente bene, eh. Arrivi benissimo. Ma sei con l'antenna in gomma? Sì, è con l'antennino suo, no? Quello che danno in dotazione, sottile, molto flessibile. Anche se ti sposti e lo pieghi non si aspetta, va bene. Aspetta, arrivi benissimo, sei 9 qua, sei 9, segnale 9. Allora io ho l'antenna, una X50 con 2 metri, 3 metri di tubo, sempre appoggiata un 5-6 metri più lontano della mantova. Sì, e beh certo, io stando in questo punto dove sono adesso, col PMR lo so che va bene, però se mi Claudio perdere colpi, perché si sa, la frequenza è questa, è quella che è, per cui se mi sposto magari mi sento male, il discorso è sempre quello. Ma in questa posizione io ormai qua sono seduto al centro del letto, se poco a poco esco fuori dalla porta magari non mi senti più, ecco così, o meglio mi senti male, capito? Così è. No, io ho provato col portatilino, in certi punti prende, in certi punti no, nonostante sia alto, alto e con visualità, dico, al 95%, non venuto da là, c'è niente da fare. Allora ho detto, no, se devo entrare e non farmi sentire, meglio che mi organizzo, e allora mi sono portato questo piccolino, l'ho attaccato l'antenna e tanto, io lo posso spostare. E va bene così. Ok, dai. È giusto per il toretto, c'è un po' di movimento qua. C'è Tonino, Gio Maria ogni tanto si fa sentire, c'è Emanuele, io. È entrato Marino l'altro giorno. Ah, c'è un po' di movimento, dai. Giusto per cambiare un po', per tenere una e l'altra, visto che ce li abbiamo. Certo, questo sì. No, io ero un sacco di tempo senza accenderlo. L'ho acceso ieri per vedere se c'era qualcuno, ma ho fatto una chiamata, non mi ha risposto nessuno, allora l'ho spento e adesso ho quasi l'ho riacceso e appunto ho sentito questa portante, come avrei sentito nell'altra frequenza, tu stesso traslandola praticamente, non traslandola volontariamente, ma involontariamente perché era vicino, e per cui va bene così. No, se vado sul tetto poi, allora, io se vado sul tetto con questo bambino io arrivo anche a Trentino, anzi, meno di più. Un paio di volte sono arrivato addirittura in Corsica quando c'era Sandro che lavorava, faceva quel genere di lavoro che andava fuori in Corsica, eccetera. Mi collegavo con lui, 2 volte è successo questo. Io facevo una volta con l'antenino e sul cassetto. Beh, se c'hai vista ottica già funziona bene. Vediamo un po', ho sentito qualcosa sotto. Tonino! Sì. Ehi, io sono in Oga. Giulio, non lo sentite? No, negativo sentirlo. Ehi, non vedi che hanno buoni muri di antenna in macchina, intendi tutto. Manuela, non mi senti? Faccio per te, non mi intendi, faccio per te. Sì, ho già detto un altro Giulio. Non lo intendi? Peggio per te che non lo intendi. E dove state andando? Mi ha dato i pari. Ma non è pari. Come è Luca? Te la metti a Luca? Luca, ma è come? Un altro soldatino. Mi ha dato i pari. E ieri l'ho sentito entrare. Mi vedi, è entrato anche Luca qua ieri. Che c'ha solo il PMR. Baracchino l'ha tolto. Capito? L'ha tolto lì da Marina. Per quello che non l'ho sentito più. Quando l'ho sentito? Alcuni giorni fa, ma mi sembra che mi ha chiesto controllo e basta. Ma saranno 4-5 giorni fa e poi è sparito, non l'ho più sentito. Ma ero già minimo, ero 15 o 20 giorni senza sentirlo, fino a quel momento lì. Poi non l'ho più sentito. Vabbè, vediamo se mi sente adesso. Secondo dove è chiaro che non mi sente Manuele. Manuele, mi senti? Manuele, sentito è Giulio. No, deve essere da Faraddo. Adesso è che è andato Tonino a prenderlo, si è arrivato tutto, ma già c'era anche Tonino in macchina, il PMR, quindi già si fa sentire. Ok, che problema meno? Con quale potenza sta uscendo questo? Perché questo ha tre potenze, no? Magari ha un watt solamente, e sarà per quello. Adesso tu guarda per quello segnale, mi dici quando è la portante più forte, per vedere se, per capire, perché ripeto, non ho io il display qua, e dunque non posso vedere niente, perché mi era caduto per terra e si è fasciato. A questo punto non so nemmeno con quale potenza posso uscire. Adesso io ti faccio tre passaggi qua, guarda lo smitter, solo così poi maggiore o media oppure minima. Guarda adesso, uno è questo, mollo un attimo la portante, questo è il secondo, dovrebbe essere un altro segnale, non so se mi stai ancora ascoltando, e adesso mollo di nuovo la portante e faccio il terzo passaggio, e questo è il terzo passaggio, vediamo un po' se hai potuto vedere il segnale, vai qua. Non è che cambia di molto, forse il terzo passaggio è il migliore, perché ho visto che si è acceso un altro LED e poi è sparito. Allora è quello, perché secondo, ripeto, sul quadrante a me mi avrebbe segnato, o meglio, lo segnerebbe tutto questo coso qua, però ripeto, siccome mi è caduto, il display si è spento e non so più niente, non capisco più niente, infatti posso solamente digitare la frequenza che sono interessato ad ascoltare o a trasmettere, e allora già ho visto che funziona così. Però tutto il resto, tutti i comandi non lo posso sapere, capito? Per cui va bene, ma comunque quasi niente. Costa 30 euro lui, quando capita me lo ricompro nuovo, non se ne fa da più. Ma solo per avere il display, se no funziona questo lo stesso. No, lascia questa qua. Lascia questa potenza che mi sembra quella più alta, perché si è illuminato un altro LED. E poi però si è spento, evidentemente come ti sei mosso, capito? Lascia questa e vediamo. Per il momento non ha cambiato niente. E allora questa, aspetta che cerco di bloccarla, adesso lo tengo schiacciato la chiave così e la blocco, e così blocco anche il canale, blocco tutto così. Aspetta un attimino che blocco tutto, vediamo un po' se ci riesco a bloccarla. Adesso dovrebbe essere bloccata, non lo so. Aspetta che provo a vedere anche a cambiare canale, eventualmente se per caso mi perdi, allora dovrò spegnere e rifare da digitare di nuovo la frequenza o qua. Se per caso, perché io adesso tocco i tasti, no, e non si dovrebbe spostare di frequenza, non si dovrebbe, però se si sposta magari mi perdi, no? Allora cosa faccio? Spengo e rifaccio di nuovo la frequenza con le tasti da capo, ok? K. Claudio. Ehi, Manuel. Ehi, siamo qua fermi alla città mercato, ma Giulio non lo sento. Vabbè, lui è un po' più distante, con le antennine in gomma così è un po' incasinata la cosa. No, tu stai arrivando benissimo. Ma cosa sta usando Giulio? Ma antenna in gomma sta usando? Sì, l'antenna in gomma, così, l'antennina in gomma. Giulio? Ehi. Per quello che non lo sento. Io sto usando l'antennino suo, quello in gomma, sarà alto un palmo, nemmeno un palmo, dai, più o meno. Sentito, l'antenino in gomma sto usando, nemmeno un palmo, Sentito, Emanuele? No, non lo sento, no. Ma sicuro sei che hai lo squelch aperto? Apri lo squelch, apri in quella radiolina. Se tu hai lo squelch chiuso, è chiaro, già la possibilità io non ce l'ho di uscire bene perché sono con l'antenino. Allo stesso tempo, se tu hai lo squelch a 5-6, come di solito è, con il portatile, allora aprilo e mettilo a zero, allora può darsi che mi senti. Controlla quanto c'è lo squelch, Emanuele. Se è troppo alto, se è a 5-6, abbassalo lo squelch. E anche se abbassa lo squelch, no, che non viene regolato le squelch. Ehi, a vedere, Entusi, devi entrare nel menu e regolarlo. Già c'è. E infatti, perché se lui l'ha lasciato come l'ha comprato, era a 5 o 6 lo squelch, sicché ti puoi immaginare, è ovvio che non entra. Stavo dicendo, ma lui dov'è, perché? Dove, in quale posizione si trova per non sentirlo? Perché se è all'Atenolce io dovrei sentirli tutti bene. No, è a Città Mercato in macchina con Tonino. Mi senti adesso? Manuel, mi hai sentito? Io ti sento, Manuel, è Giulio che tu non senti. Io non so, lo squelch ce l'ho a uno, ok. E a uno va bene lo squelch. Allora è proprio un problema di posizione, dai. Già va bene. Ma state entrando dentro? No, è entrato un attimino, stava sentendo che deve tirare delle medicine e sta uscendo subito. Ah, positivo. Avanti, giù. Però è strano che io riesco a sentire lui e lui non sente me, anche quella, a meno che non ho la batteria scarica. Adesso cambio anche la batteria, vediamo un po', perché sennò è un problema, forse la batteria che è scarica, un attimino. Ecco, Claudio, io ho già cambiato la batteria. Claudio. Aspetta che arrivo, è un secondo solo, le sto dando una mano a mia moglie a ritirare la roba. Va bene, d'accordo, Claudio, perché ho già cambiato la batteria tranquillamente. Attento, Manuele, ci sei adesso? Chi è? Chi è? Chi sei? Luca sì. Ciao Mari. Sta baba, di buu. Buonasera. Sembra buono la sera. A vedere, sembra buono, un po' di caldo c'è. È troppo pure. Cazzo, se cazzo al mercato fa un po', no? Cazzo, metti le ventole, vabbè, metti le ventole. So che no, che la città mercato va un forro. Ah, la città mercato sì. Se vedi, ha pirato un freco. No, sono con Tonino che hanno a ritirarsi le medicine. Ah, cazzo. Mamma mia, gatto, medicina, gatto, per carità. Ah, velenotti, gatto, si è passato a ritirare un veleno, gatto. Purtroppo bisogna prendere anche quelle. Con chi stavi parlando? C'era Giulio e Claudio. Oh, vedi un po', Giulio. Giomarì, mi senti a me? A voi ti sento, non è forte la radio, segnale a fondo scala. Strano, perché Emanuele non mi sente, strano, io a lui lo sento, lui a me non mi sente, proprio strano, veramente. Vabbè, col gommino io sto uscendo, chiaramente, però io a lui lo sento anche bene, ma lui a me non mi sente. Evidentemente si deve mettere qualche supposto per poter arrivare giù. No, ma lui arriva, e sono io che non arrivo da lui. E quello, il problema è quello. O è solo che sta parecchietto, che ha, non cosa ne so. Perché da Claudio arrivo fortissimo, da te arrivo fortissimo, e da Edo non mi intendi. Ma Edo comprende la trattoria. Io ti sento perché sono qua in facciata, sono io, così che è per quello, se me ne vado dall'altra parte non ti sento più, perché sono volantino suo, come si chiama, volantino gommino. Anch'io sono col gommino, Gian Maria, anch'io, io uso sempre il gommino con questo apparecchietto, ma anche lui, cioè lui è a Città Mercato, mi dovrebbe sentire, che aspettate. Che poi tra l'altro, vabbè, questa è la frequenza, lo sappiamo, è una frequenza un pochino maledetta, però mi dovrebbe sentire, essendo a Città Mercato, se io sento a lui, anche lui sarà col gommino, è ovvio, no, se è in macchina è col gommino, a meno che non ha un'antenna esterna in macchina, però no, io a lui lo sento, ma lui a me non mi sente, è quello il problema. Questo è un rebus, come ti ricordi quei tre che avevamo? Tu giravi tutto Sassar in macchina e ti sentivo, e magari e gli altri ti sentivano. A me già mi sentite, ma però. A voi se ti sentiamo. Da fare la prova. E noi siamo piccolini, tu sei più grande di voi, per cui già lo credo, buonasera comunque. Ciao Giovanni, buonasera. Ehi, vabbè, io sempre questa ciomi. Adesso poi me la porterò, non so se la lasciarla qua a fine mese o portarmela via. Questo è quello che uso a casa. E se non ha giù altro, cosa tratto? Tanto oramai siamo liberi cittadini. Emanuele, indie. Ehi, è il sottomercato. Dice che è sempre per il trattore, ma a chi gli biburu per troppo gas ha detto. Strano che un bel niente si dà dal sottomercato a farsi giro per rinfrescarsi e invece lui è a caldo, boh. Sottomercato c'è fresco, sì. C'è fresco, sì. No, ma adesso, più tardi, quando cala un po' la temperatura, con questo vento di maestrale si sta da Dio, si sta da Dio, si sta benissimo. Solo che adesso c'è ancora vento caldo, perché maestrale deve essere che è troppo, non è forte, capito? Non ce la fa a battere la temperatura, però comincia a baciare usori, vedrai tu come si sta bene, Gianmarie, capito? Avanti, giù. Ok, beh certo, la gente va lì perché c'è l'aria condizionata e dunque per sfruttare il fresco di città mercato, che poi anche lì hanno messo tutto sotto sopra, perché non è più come prima città mercato, adesso è Conad e l'hanno tutto modificato e dunque ci mancano anche tantissime cose rispetto a come era prima. Ah vabbè, un bel alimentari e poi tutto il resto così. Va bene. Avanti, Giovanni. Ok, adesso mi sposto, io sono infatti a un caso che vi blocca tutta la divisione in Oga, così che devo portare a partire dentro, forse non mi sentirete là dentro, perché c'è troppo caldo, dai. Sono uscito un attimino a vedere un po' se sentivo qualcuno, ma mi sposto che c'è troppo caldo qua, vai. A parte niente, forse magari sentirò a caso, lo sento, ma a te forse non ti sento giù. Dai, riprendo dopo, eventualmente, dai. Riprendi tu, Manuel, se ci sei, avanti. Ehi, sono qua a Bretella. Non so se mi ascolti, penso che mi ascolti da qua, perché siamo vicini. Io ti sento pure quando ero in città mercato, sentivo. E adesso ti sento anche più forte. Mi sono passato la parte dietro, ci sentiamo dopo, riprendi. A dopo, Giomari, vai qua. Ehi, Giomari, no, già ti sento io, ti sento sempre, anche se moduli dall'altra stanza ti sento. Non ce n'è problema, io ho l'antenna esterna, piccolina, ma già ce l'ho. Quindi non ti preoccupare, se vuoi entrare, tranquillo. Vai giù. Giovanni, vabbè, passa pure là, è chiaro, se dice caldo, non stare lì al caldo. Se non ti sento, pazienza, ritieniti salutato e ciccia, avremo modo di sentirci magari in un altro momento. E anche Emanuele, adesso stava incominciando a fare male anche lui, è tutto quanto tratteggiato. Attento Emanuele, mi senti adesso? Emanuele, non lo senti a Giulio di nuovo, no? Non lo sento manco io. Quando era detto che era nella bretella, ma stava arrivando tutto a tratti, stava arrivando. Si vede che adesso è in una posizione un pochino balorda. E vabbè, pazienza, dai. D'altronde lo sappiamo, la frequenza è quella che è. Poi un bel giocattolino, cosa voglio fare? Non è che ho molte pretese, no? Anzi, assolutamente niente pretese. Sì, hai visto domani che le sposto quell'antenna a Tonino, gliela metto bene, c'è un bel discone. La sistemo bene come Dio comanda, vedi che arrivi in tutti i luoghi, arrivi, visto che lui è in campagna e può fare quello che vuole. Domani mattina, paio d'ore, sistemiamo, tiriamo un po' su quella della 27 che è troppo bassa, le aggiungiamo l'altro radiale e finiamo tutto, perché così non va bene. E poi le sistemo anche l'altra, quella di questa banda. La metto bene perché è troppo attaccata alla. Lui l'ha messa attaccata all'antenna della 27, capito? Non il radio, i radiali sono tutti attaccati al tubo, non va bene. Il discone va lontano, va allontanato, messo alto, bene, e vedi che ci vede. Sicuramente sì, in effetti, soprattutto perché questa è una frequenza un po' particolare, e se non la sfrutti al massimo. Con la posizione migliore, eccetera, allora la questione va male veramente, ma comunque se domani devi fare quel lavoro, allora tanto di guadagnato sicuramente migliorerà, non ci sono dubbi. Così è, vediamo se mi sente adesso, se è rientrato Manuele. Manuele, ci sei? Sì, adesso ti ascolto giù, mi senti a me? Sì che ti sento, ti ho sempre sentito. Solo quando ero nella bretella mi si è arrivato a tratti, perché forse il movimento della macchina. Ma ti ho sempre sentito, anche quando ero a Città Mercato. Strano che non mi sentivi tu, il problema è quello. Sì, io non sento perché ho il portatile con l'antennino suo, non sono a casa. E quindi come ricetto è negativo. Anch'io ho il portatile con l'antennino suo. Poi tra l'altro non so se funziona bene, se ha tutta la potenza, non lo so, perché mi era caduto per terra, mi era caduto e dunque qualche problema ce l'avrà senz'altro, perché è strano, perché a me con questo gommino mi sentivano anche a sentino, ti puoi immaginare, per cui sarà che è cambiato tutto, non lo so. So solo che mi è caduto per terra e avevo le cuffie, mi si è attaccato il filo delle cuffie al portatilino e me l'ha buttato per terra. Da quel preciso momento ha incominciato ad avere dei problemi. Uno è quello che non si vede più il numero della frequenza, proprio rimane spento il display. L'altro che c'era la radio, c'era anche FM e nemmeno quello si sente più. Insomma, è caduto in terra e basta, sei mezzo fasciato o Manuè. Non lo sento più neanche io, Manuè. Sì, acca. Basso arrivi. E adesso mi stiamo modificando un antennino, così quando esce se lo mette in macchina e vedrai la differenza che c'è, Manuè. Non lo sento più. Sì, adesso sì. Ti sento o non ti sento? Gita. Questa ci dà mattana anche a noi a volte in UHF, capito? In diretta in UHF con le antenne in macchina e a tutta birra, se no se usi i portatili non arrivi al luogo. Infatti noi in macchina usiamo i veicolari, io usavo il veicolare perché in UHF altrimenti non riesci a lavorare. Le V sono molto più drastiche, nel senso che le aperture sono molto più, si sente molto meglio. Beh, sicuramente sì, è ovvio, se c'è più potenza è chiaro che allora c'è la possibilità di andare più lontano e di farsi sentire anche in momenti un po' difficili, diciamo, di costruzioni, palazzi e palafari, è ovvio, questo senz'altro. No, questo è un giocattolino, è un portatile da 30 euro, che ti puoi immaginare. Che cosa può essere? È un portatile da 30 euro, niente di particolare. E poi se modulo a lungo lo scatta anche le stand-by, ti puoi immaginare. Se supero, adesso non mi ricordo quanto era, 60 secondi forse. E vabbè, io non ce l'ho da 30 euro, il portatile ne ho uno da 120, uno da 150, uno è della Icon, l'altro è della... c'ho il Voxion, poi c'ho l'altro, ne ho tre, capito? Però sempre portatili sono, quindi con l'antenna in gomma il suo lavoro è quello, non è che può fare miracoli, capito? Miracoli non ne può fare, vabbè, questa ce l'abbiamo per divertimento e usiamola per divertimento. Chi sente sente, chi non sente si pone i guffi. Manuele, buco con i guffi non intendi? No, si è dimenticato la bassa Lecce, è quello. vabbè, dai, comunque, anche questo è un giocattolino e ci divertiamo lo stesso così. Poi su questi canali, otto canali, per cui adesso questo è il canale 7, vabbè, perlomeno mi ricordo che era 7, sì. E allora va bene così. Però già ci sono, è potente, già ci sono, ma non le puoi usare. Quelle potenti, se vai la patente, cosa te ne fai? No, poi non è il caso, tanto si usiamo anche poco, per cui. Però in certi momenti è anche comodo. Anzi, una persona alcuni giorni fa mi ha telefonato che ha voluto sapere qualche indicazione riguardo a questo, perché gli serviva per fare le escursioni eccetera. Adesso non ti dico in frequenza chi è, ma non è un problema. Certo, si può, sì, portatile si può, sempre nella soglia però, sempre con massima attenzione. Noi usiamo i veicolari, i base eccetera, no, quelli base li ho lasciati a casa, si graffiano. C'avevo questo della macchina che se è nuovo nuovo, l'ho messo a fianco al baracchino, per quello c'è l'alimentatore, se no non me la fottia nuda, capito? Non me ne frega niente, ma avrei lasciato l'Inuit con l'MB più 5 a 2,20 e basta. Invece già in questo tavolino sta iniziando, è quello, è quello, è quell'altro, Ravini, diventa come te Sassari. Però già lascio solo questo e buh, almeno lo uso, dai. Poi vediamo cosa succede nel periodo, intanto ho abitato a settembre. Poi vabbè, già è sempre abitato, quindi non c'è problema. Manuè! Deve essere stanno andando da Tonino lì, a Logulento, no, non si intende più. È probabile che è così, infatti deve essere così. Sì, perché appunto, ma glielo ho spiegato, anche a quella persona glielo ho spiegato, guarda che per fare delle escursioni è già un ultimo apparecchietto, però se non hai qualche watt non è che puoi fare più di tanto, e secondo dove sei, con 500.000 watt non ce la fai, ma gli ho spiegato il tutto, le varietà e le varie versioni degli apparecchi. Guarda che per fare oltre i 500.000 watt ci vuole la patente e devi stare molto attento, perché se vai in montagna o vai dove ti vai, puoi anche essere tranquillo, perché non penso che nessuno di ti possa intercettare, però devi stare molto attento, ma se non vale la patente per queste cose no, non è possibile, se no sei costretto a prendere quello giocattolino da 500.000 watt, ma può darsi che ti sentano, ma sicuramente avrai molte difficoltà nel farti ascoltare e soprattutto ascoltare anche tu. Pericoloso è, se ti ferma la forestale che non ce l'hai omologato è pericoloso, devi stare attento anche di questi cinesi che non sono a norma. Ok, è pericoloso perché nonostante non ci sia più il vigore, quello insomma che hanno messo nella gazzetta ufficiale, rimane il fatto che le radio devono essere sempre omologate e a norma c'è, quindi se tu hai il PMR deve essere canalizzato, omologato, eccetera. Se stai usando un Voxion, se stai usando uno di questi PMR cinesi dove puoi intercettare, cioè a frequenza libera, che non è canalizzato, che non è solo PMR, non lo puoi tenere, è sempre un problema. Giustamente, come hai detto, tu devi avere la licenza, perché ho un mio amico cacciatore, però è radioamatore, lì nella zona di Coso, lì, di Libadesi, quelle zone lì, hanno fermato la forestale per un controllo normale, che era in regola, tranquillo, e ci aveva il portatilino agganciato. Ha detto, quello è un VHF, un HF, poi gente preparata, ma risulta perché ce li hanno anche loro. E gli ha detto, sì, questo è il mio portatilino che usiamo per chiamarci quando siamo in posta. Documenti ce li ha, sì, sono radioamatore. L'ha fatto avere la patente, la licenza, è tutto a posto. Se non aveva i documenti, li gessava, perché era un portatile non omologato, cioè quelli che usiamo noi amatoriali, capito? Sì, certo, ma glielo ho spiegato, infatti. Io glielo ho detto, io ti posso fare in questo ragionamento, ti posso spiegare le cose, però poi sarà a te fare quello che credi, perché, però io ti metto in guardia, perché se usi il 500.000 watt con gli 8 canali stabiliti per libero uso, non avrai problemi di nessun genere, però se ti compri un qualcosina di più potente, di più importante, devi avere la patente, perché se no potresti, in caso di controlli, potresti avere delle noie. Ma te l'ho spiegato chiaramente, no, perché questo è un amico CB che io gliel'ho spiegato, tu non hai la patente, per cui devi stare molto attento, vedi un po' tu quello che vuoi fare o che devi fare, sono affari tuoi. Tutto lì o qua? Sì, devo stare attenti. Purtroppo è così. Vabbè. ognuno è libero chiaramente di fare e disfare quello che vuole, però io dico sempre massima attenzione su queste cose, perché poi si rincorre in sanzioni. Aspetta, mi sta chiamando moglie, che c'ho roba nel fuoco. Ok. Sì, sto facendo il merluzzo bollito per stanotte, insalata con tutto, pomodorini eccetera, e se lo cucini troppo si disfa, capito? Allora mi ha detto vieni a vedere se è cotto. Ok, no, io ho seppioline con le presenze per stanotte e un po' di pasta asciutta e siamo a posto anche per stanotte, perché va bene così, già programmato questo. Sì, ma è così, ma te l'ho detto, guarda che anche l'antennino deve avere il suo antennino, non puoi assolutamente cambiare antenna, insomma, mi ha spiegato tutto, come stanno le cose. Poi vedi tu quello che vuoi fare, e sono affari tuoi, se ti pescano sono affari tuoi, se non ti pescano tanto di guadagnato per te, in caso di apparecchiature non omologate e adatte a te nel senso che non hai la patente, tutto lì o qua. Io glielo ho spiegato, era un dovere farlo, perché se mi chiedi una spiegazione io te la do, però poi ti consiglio anche quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Poi state segui delle direttive, tutto lì o qua. È meglio essere sinceri, perché altrimenti poi c'è, cioè, mi hai detto che no, io da giù tu cucini vi va, sia da voi sia a Capodoglio, allora ad arrangi, perché è molto pericoloso, ti mettono la multa, La multa ti sequestrano la radio, la multa è salata, mi pare che sia la prima sia 600 euro, quindi, cioè noi che andiamo a fare un giro in montagna e a giubare a 600 euro, non è meglio che il biglio la seggio via allora, scusa. Va bene, no, noi a pranzo abbiamo fatto un bel sughettino con i pomodori freschi fatti all'orto, freschi, quelli più maturi, proprio pomodoro fresco. E basilico, capito? Abbiamo fatto una bella pasta asciutta. Io, mia moglie e mia figlia. Un giorno è rimasto a lavoro, perché c'è un sacco di lavoro in questi giorni, e quindi è rimasto a lavoro. E stanotte ci abbiamo un po' di pesce. Io e mia moglie ci abbiamo il merluzzo. Il merluzzo in bianco, con un po' di olio, un po' di limone, e una bella insalatona. E loro mi sembra che abbiano dei calamari, roba del genere. Va bene. E così è, comunque. Cosa vuoi che ti dica? Tornando a noi, beh, sempre ancora a gallo, lo sai? Avevo aperto tutto e mi avevo detto, sta entrando un'aria calda, chiudi per favore, perché se no stanotte non si respira. Vabbè, aggiungerò da sarà tutto. Beh, certo, nonostante la porta spalancata, qui nella camera da letto, io addirittura la porta a finestra della camera da letto a due ante, ti puoi immaginare, più aria di così, c'è la zanzariera chiaramente, e le persiane sono chiuse, quello sì, ma dalla persiana passa aria, ma nonostante tutto diciamo che il caldo lo senti ugualmente, non è che puoi stare tutta la notte con l'aria condizionata, no? Assolutamente no, ci manca il chiasso. Ma per dire no, e poi tra l'altro mia moglie le fa anche male l'aria condizionata, è delicatissima, perché ha una specie di sinusite, una cosa del genere, capite? Per cui non è che posso usarla molto l'aria condizionata, l'accendiamo quando in questa stanza non ci siamo, la rinfreschiamo un po', però poi la spegni e rimane tutta la notte la porta finestra aperta con la zanzariera. Ma anch'io, io non dormo con l'aria condizionata, no, rinfresco un po' prima e poi la spengo. Poi qua è alto e la notte si dorme bene, la verità. Durante il giorno che c'è molto caldo. E durante il giorno sto bene solo al fresco, sto la veranda, infatti mio Filippo ce l'ho fatto entrare dentro. Capito? Gli altri cani hanno il canile, però è coperto. È a tettoia, quindi gira una leggera brezza e il sole non li biglia. Lui invece sta buttato fuori sempre al sole, allora io parte a dentro ed è coricato per terra vicino alla porta, capito? C'è più fresco e vabbè, e passerà, te l'ho detto, tra sabato e domenica c'è un picco di 10 gradi in meno, poi avremo ancora un po' di caldo e poi penso che le temperature verso metà settembre, la seconda settimana di settembre, abbassino e rimangano stabili sino a meno che non ci sia qualche picco nuovamente di passaggio di questa perturbazione d'aria calda, ma chi lo sa, vabbè, ancora già non farà caldo, però adesso incomincia, infatti anche le giornate stanno diminuendo, la sera fa buio prima, capita, in quel mese scorso addirittura alle 9:30 era ancora luce in carrina, adesso invece già alle 8:30 praticamente siamo già all'imbrunire, per cui si sa, le giornate stanno anche accorciando. E vabbè, comunque si sa, il tempo è così, le stagioni sono stagioni, per cui fanno il suo tempo. È passato ormai luglio, maggio e giugno è passato, che sono i mesi dove ci sono le giornate più lunghe. Va bene lo stesso, dai. Sì, andava, sì, ha voglia di andare. Ok. Vuoi passare nuovamente al 10? Sì, è acceso, ho solo abbassato il volume e basta. Passiamo al 10, va. Dai, così magari si entra qualcuno, se no qua magari non ci sento. Siamo sul canale 10. Sì, se sei tu siamo sul 10. Amico del PMR, siamo sul canale 10, passa lì. Claudio, sì.